tra virgolette è vecchio, che è uno che è andato in pensione, ma la professionalità di Maccari non la discute nessuno. Si discute il fatto che sia stata una nomina di fatto di frutto politico, di accordo politico. Ecco, francamente attribuire a Maccari una casacca politica a me sembra una cosa veramente sconvolgente. Chiunque lo conosce lo considera un grosso aziendalista, un grande professionista e un grande lavoratore. È un interno, è stimato. Tra l'altro è stato introdotto, secondo me, un principio che dovrebbe valere sempre della nomina a tempo con la clausola del recesso, in un momento in cui, ricordiamoci, sul TG1 pende il ricorso di Minzolini, che a mio modo di vedere, che dovrebbe essere discusso entro fine febbraio, che a mio modo di vedere ha grossissime possibilità di essere reintegrato. Cioè Minzolini potrebbe essere reintegrato, Minzolini, lei ci sta dicendo. È fondato il suo ricorso, secondo lei? Secondo me sì. Quindi è una scelta che dal punto di vista aziendale è ineccepibile. Senta, le nomine dei direttori con Casarini. Le nomine dei direttori però di Rai sono politiche o no? Hanno a che fare con la politica? E guardi, io sogno un'azienda nel quale lo scandalo non sia la politica che preme, ma è l'azienda che non cede, e le garantisco che in questo caso, nella nomina di Maccari e Casarini, così è stato. Cioè l'azienda è andata avanti per la sua strada indipendentemente dalla politica, perché i politici tutti, da destra, sinistra eccetera, invocano sempre a parole l'indipendenza della RAI, ma nei fatti cercano di condizionarla. Quindi quando presumono di essere contenti delle nomine che il CDA fa, allora non protestano, viceversa protestano. Quindi lasciamo fare alla RAI il suo mestiere, lasciamo fare al direttore generale e al CDA quello che ritengono giusto che venga fatto per il bene dell'azienda. Senta Verro, lei ieri ha annunciato, lei si è trovato da un mesetto circa in una situazione incompatibile per legge, perché è subentrato a un deputato che si è dimesso, l'onorevole Paroli, lei è diventato anche deputato. Ieri ha annunciato: mi dimetto dal Parlamento. Ora lei formalmente lo è ancora parlamentare, perché il Parlamento deve accettare le dimissioni. Cioè lei ieri ha votato. Le ha dato le dimissioni e le ho date lunedì scorso. Devo dire, le ho date così un po' perché si era molto strumentalizzato, secondo me, su questo evento che francamente io non potevo prevedere di ritornare a essere parlamentare. Alcuni parlamentari addirittura si sono spinti a giudicare illegale il mantenimento per alcuni giorni il doppio incarico. In realtà io ho rinunciato alle prerogative che il Parlamento concede, e quello che ci sia un certo iter procedurale che poteva consentire per un mese e mezzo, due mesi di mantenere il doppio incarico, quindi per evitare strumentalizzazioni ho rinunciato a questo doppio incarico. E ho rinunciato non come parecchi politici mi spingevano a fare, cioè rinunciando all'incarico in Rai, ma rinunciando all'incarico in Parlamento. Ma è un bel rischio, perché sa che forse Monti vuol mettere mano al CDA presto, e lei si rischia di trovarsi senza Parlamento e senza CDA. Se avessi dovuto guardare alla scelta più conveniente per me, sicuramente avrei scelto il Parlamento. Ho fatto la scelta più coerente, e cioè mi sono detto: il Parlamento 3 anni fa quasi mi ha dato l'incarico di sedere, l'onore di sedere nel Consiglio di amministrazione della RAI, mi sembra corretto portare avanti l'incarico fino in fondo. Senta, però lei, qualcuno ha detto, lei era votato formalmente da ancora parlamentare e membro del CDA RAI, tanto che qualcuno ha ipotizzato che il voto per questo debba essere considerato illegale all'interno del CDA della RAI. Guardi, le prerogative del Parlamento non sono rinunciabili, quindi dal punto di vista formale e giuridico non c'è alcun dubbio che è legittimo e corretto il mio comportamento. Dal punto di vista morale, dopo le mie dimissioni, ripeto, non dovute nei tempi, io lascio agli altri il giudizio sulla mia correttezza. Una battuta, non so se lei conosce un giornalista, tale Wolfgang Achtner, che si è autocandidato, giornalista americano di nascita, ma credo italiano, che si è candidato al CDA della RAI dicendo: voglio diventare, in maniera seria, direttore del TG1 per competenze. Un giornalista? Guardi, ne sa qualcosa? Ho ricevuto, non lo conosco, ma ho ricevuto anch'io comunicazioni e lettere da questo signore. Io non amo molto le autocandidature, credo, forse sarò un ingenuo, forse sarò un illuso, credo che quando si svolgono questi incarichi così delicati, che sono incarichi di grande sacrificio personale, devono essere vissuti come servizio. Quindi quando ci sono autocandidature, francamente, io sono sempre molto tiepido. È molto tiepido. Senta, che ne pensa di Sanremo? Insomma, Rai, Sanremo, la beneficenza di Celentano, per esempio. 750.000 euro, qualcuno dice, sono troppi, però lui li dà in beneficenza. Va io bene sono così? D'accordo. Cioè, secondo me qui hanno tutti ragione e tutti torto, nel senso che... nella vita le cose si fanno sempre in due, quindi se Celentano va a Sanremo è perché qualcuno lo ha chiamato, quindi quando chiami Celentano sai che ti infili, come dire, in tutta una serie di problemi che sono legati alla particolarità di questo grandissimo artista. Cioè non andava chiamato, no? Ma o non andava chiamato o andava gestita meglio la cosa, francamente, perché io avrei annunciato la partecipazione di Celentano a Sanremo dopo che erano firmate tutte le carte. Quindi tutto questo balletto, firma, l'autonomia, l'indipendenza, l'introduzione pubblicitaria, francamente non mi è piaciuto. Cioè le condizioni poste da Celentano non le piacciono? No, io non dico questo perché non parlo soltanto quando leggo le carte. Non mi è piaciuto il balletto dei titoli sui giornali, Celentano sì, Celentano no, deve firmare una virgola in più, una virgola in meno. Io con Celentano avrei prima definito il contratto firmato e poi avrei fatto tutte le comunicazioni di questo mondo. Così come le devo dire che non mi è piaciuto per nulla il comportamento del direttore artistico che ha pubblicato gli scambi di SMS privati tra il direttore generale e il direttore di rete, mi sembrano, come dire, atteggiamenti improntati alla massima leggerezza. Su Celentano, grandissimo professionista, ho apprezzato molto la sua comunicazione di ieri in cui dice che dà in beneficenza il suo cachet, e detto questo il suo cachet rimane sempre alto. Credo che sia inopportuno che la Rai paghi in un momento come questo tutti quei soldi lì. Detto questo, lui ha fatto una bellissima cosa, anche perché poi quei soldi lì creano dei precedenti nel mercato, cioè, certo. Francamente mi sembra inopportuno. Pare, secondo il secolo XIX, che voglia portare Beppe Grillo, questo Celentano, e Beppe Grillo sarebbe una bella bomba sul palco dell'Ariston. Bomba in tutti i sensi, insomma, francamente poi lo vedo proprio anche dal punto di vista artistico un po' in caduta libera. Spero soltanto che Celentano non abbia tutta questa autonomia, perché adesso, diciamoci la verità, dare a un personaggio come Celentano tutta la sua autonomia per fare le sue prestazioni artistiche e i suoi famosi silenzi va benissimo, che però possa anche decidere gli ospiti, non lo so. Se ha l'autonomia, Celentano è così, non è che adesso lei pensa di imporre a Celentano qualcosa, Celentano... Se uno lo prende. Una cosa. Io sono sempre di un parere che sono gli artisti che hanno bisogno della RAI e non la RAI che ha bisogno degli artisti. Quindi credo che massima autonomia nel rispetto del codice etico, per carità, sulle prestazioni artistiche dell'artista, in questo caso di Celentano, però credo che la direzione artistica dell'evento debba essere salvata. Beh, ma se dovesse portare Beppe Grillo non è un appestato, voglio dire, non ci può stare Beppe Grillo a Sanremo. Guardi, io non lo inviterei, poi per carità, poi ognuno è libero di fare e dire quello che vuole, io personalmente lei non lo inviterei. Un'ultima battuta, dottor Verro, sul canone della RAI. Chi non paga il canone della RAI, lei che cosa direbbe a chi dice io proprio non lo pago? Ci sono anche parlamentari che dicono non lo pago come forma di protesta. Anche i parlamentari sbagliano, mi creda. Sbagliano perché il canone, che non è un canone ma è una tassa sul possesso dell'apparecchio televisivo, è la più bassa, tra le più basse d'Europa. La RAI, questa vituperata azienda, è quella che produce, io invito chiunque a guardare e poi parlare, i programmi prodotti dalle televisioni pubbliche degli altri paesi europei e quelli della RAI. La RAI dal punto di vista della qualità e dalla quantità delle ore prodotte è sicuramente la numero uno in Europa, questo francamente ce lo riconoscono tutti, noi però siamo sempre un po' autolesionisti e ci piangiamo sempre addosso. Detto questo, è tutto da migliorare, certamente abbiamo mille lacune, Però, beh, insomma, questo non c'è. Beh, sì, che vada pagato, questo sia una tassa. Intanto la ringrazio, dottor Verro, per essere stato con noi. Antonio Grazie. Verro, del CDA della RAI, e dimessosi ieri, ha comunicato: mi dimetto dal Parlamento, erano incompatibili le due cariche, ora il Parlamento dovrà accettare queste dimissioni. Noi dopo pubblicità e meteo parleremo di lotta alla corruzione. C'è una proposta fatta da una commissione voluta dal Ministro della Pubblica Amministrazione che ha lanciato alcune idee. La prima, dipendenti della pubblica amministrazione che venite a sapere di casi di corruzione, denunciate e noi, se recupereremo dei soldi, vi daremo una percentuale fino al 30% dei soldi recuperati. Che ne pensate? È una istigazione alla delazione oppure un qualcosa di giusto? E poi anche questa commissione prevede per tutti i politici di pubblicare i patrimoni fino ai parenti di secondo grado. 24 mattino. Eccoci qui alle 8:35 minuti. Allora, che la corruzione in Italia sia un problema grave, che ci comporta anche delle spese e che tra poco cercheremo anche di quantificare, è un dato di fatto. Quello che sta suscitando polemiche, dibattito, è ciò che la Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, una commissione voluta dal Ministro per la Pubblica Amministrazione Patroni Griffi, ha proposto, ha steso una serie di proposte. Quelle che hanno accolto più l'attenzione dei giornali sono sostanzialmente due. La prima è questa, quella di prevedere un premio in denaro che può arrivare fino al 30% della somma recuperata all'erario per chiunque segnalerà alla giustizia o alla Corte dei Conti condotte illecite, cioè casi di corruzione. E la seconda proposta che è finita sui giornali è quella per tutti i titolari di incarichi elettivi e i dirigenti della pubblica amministrazione di avere i redditi pubblici fino ai parenti di secondo grado. Intanto saluto il magistrato Raffaele Cantone, che è uno dei membri di questa commissione. Dottor Cantone, buongiorno e grazie. Buongiorno a lei. Grazie per essere qui con noi. Saluto anche il professor Claudio Borghi, che insegna economia degli intermediari finanziari alla Cattolica di Milano. Professor Borghi, buongiorno. Buongiorno. Scrive anche sul giornale, editorialista del giornale, e oggi ha scritto di questo parlando in maniera molto chiara di premio per i delatori stile Germania Est. Allora, dottor Cantone, intanto ci quantifica se c'è un dato sulla corruzione stimata in Italia? Guardi, io non sono in grado di dare questi dati, anche perché a me sembra che poi questi dati non abbiano un fondamento reale. Ci sono moltissimi però segnali che vengono dagli organismi internazionali che hanno studiato il sistema italiano, che parlano di percentuali molto elevate di infiltrazione di meccanismi di corruzione all'interno dell'amministrazione. Si parla di più del doppio di quella che è la media internazionale. Ci sarebbero fenomeni di corruzione che arrivano fino al 10% in molte pubbliche amministrazioni, sì. E sono numeri elevatissimi. Quanto questo incide sull'elemento economico e sui dati macroeconomici di sistema? Beh, questo non è facile da capire, però ci spieghi allora il perché di questa, che ovviamente lei dirà non è incitamento alla delazione, ma l'idea di premiare anche in denaro chi fa recuperare soldi all'erario. Guardi, rispetto ovviamente a 360 gradi l'opinione del professore Borghi, che è uno studioso del fenomeno. La norma non si presta affatto ad essere considerato uno strumento a favore della delazione. Prima di tutto si tratta di premiare coloro che indicano comportamenti che cagionano un danno immagine, un danno economico alla pubblica amministrazione. E esistono meccanismi di premialità, così come sono previsti per esempio anche a volte negli strumenti delle amministrazioni locali che riguardano chi opera per esempio le infrazioni al codice della strada. Si tratta di premiare chi consente di fare emergere fenomeni di malcostume. Non stiamo parlando né di delazione, né stiamo parlando di meccanismi come quelli della Germania Est, che erano fondati su criteri assolutamente però certamente, dottor Cantone, ci deve essere l'azione di una persona che viene a sapere che qualcosa non va all'interno di un ufficio della pubblica amministrazione e lo denuncia e lo segnala. Guarda, io su questo punto vorrei essere molto chiaro, il nostro sistema prevede persino un reato che si chiama omessa denuncia, che è il 261 del codice penale, che prevede che se un pubblico ufficiale venga a conoscenza di un reato abbia l'obbligo di denunciarlo. quindi credo che nel sistema esista già una norma, si tratta semplicemente di renderla anche sotto il profilo dell'incentivazione molto più chiara. E poi attenzione, la norma non prevede affatto alcun premio automatico, prevede prima di tutto che l'attribuzione passi per la quantificazione e per la condanna, poi successivamente attraverso un'attribuzione da parte di un ufficio, quindi è un sistema particolarmente garantito che serve anche a lanciare un segnale. Io non so se mai questa norma venisse approvata, quanto materialmente, che incidenza materiale effettiva avrà, però lancia un segnale di voler premiare chi si comporta secondo le regole dell'etica interna piuttosto che chi non lo fa, di non vedere secondo metodi che mi consenta di dire hanno il carattere della mafiosità, cioè l'omertà nelle pubbliche amministrazioni spesso ha una valenza quasi mafiosa. E tra l'altro io 800 24 00 24, questo è il numero se volete intervenire e dire la vostra su questo. Allora, professor Borghi, intanto veniamo, lei nell'editoriale, nel commento pubblicato oggi dal Giornale su questo tema, mette insieme questa vicenda anche un po' alla quella che lei chiama caccia alle streghe sul fronte dell'evasione fiscale che sembra ormai da qualche mese essersi diffusa in Italia. Perché questa idea di voler trasformare addirittura in Germania Est, in stile Germania Est, questo paese? Ma perché mi sembra che sia nelle cose. Intanto saluto il dottor Cantone, che so essere un ottimo magistrato, la sequenza dei fatti è quella, cioè in Italia quando si fa un precedente eccezionale per una cosa singola e specifica è l'inizio per poi dopo estendere la cosa erga omnes. Dato che l'abbiamo visto in tanti altri esempi, non vedo perché questo dovrebbe fare differenza. Se io comincio a stabilire che c'è la taglia per chi trova o fa scoprire il danno d'immagine, figurarsi se con il clima attuale dove bisogna dare la caccia all'evasore e sono tutti contenti quando hanno trovato lo scalpo, non ci sarà poi dopo la taglia per l'evasore e così via. A questo punto però io mi domando e chiedo anche, già che ci sono, al dottor Cantone, ma è impossibile trovare con metodi ordinari il corrotto o in generale le cose che non vanno nella pubblica amministrazione? Secondo me no, secondo me basta uscire dall'ufficio e chiedere, cioè basterebbe applicare delle norme che già ci sono senza ricorrere a questi strumenti. Ma assolutamente, ma dato che si citava correttamente il fatto che ci sia reato di omessa denuncia, no? Quindi se uno sa qualcosa poi dopo deve poterla dire, non capisco perché uno deve dare un premio per un comportamento già fatto. Allora, però Borghi, lei che insegna diciamo questa materia sa benissimo che ci sono anche la parola inglese, no? Il whistleblower, cioè colui che fischia, che soffia nel fischietto, quello, il gesto dell'arbitro, cioè in Gran Bretagna, nella cultura anglosassone è molto diffusa questa figura, cioè le persone che dall'interno vengono a sapere, o anche delle aziende private vengono a sapere che qualcuno sta violando delle norme di comportamento e lo denunciano, e per questo vengono premiati, Borghi. Sì, sì, ma io sono d'accordissimo che la gente deve denunciare. Io mi domando però se lo strumento della delazione, sommato a tutte le altre perdite di autonomia, privacy e così via, che poi dopo si somma insieme con la pubblicazione, non dei redditi, attenzione, perché abbiamo detto i redditi, ma dei beni posseduti, no? Da tutti i parenti fino al secondo grado, quindi allo zio del consigliere comunale e cose di questo tipo, siano strumenti così necessari per poter andare a trovare il corrotto. Perché ricordiamo, così ho preso un esempio, ma ne potrei trovare altri, che una roba fatta alla luce del sole, come che tutti hanno visto che c'era qualcosa che non andava, vale a dire delle azioni della società Serravalle comprati a 3 euro e rivenduti alla provincia di Milano a 9 dopo istanti per milioni e milioni di euro, arriva il sindaco di Milano, non quello nella pubblica amministrazione, l'oscuro impiegato, e va a fare denuncia a 4 procure e se ne sono fregati. Allora Albertini, la vicenda del sindaco Gabriele Albertini. Sì, quindi, insomma, quindi cioè, gli strumenti ci sono. No, ma è interessante questo. Dottor Cantone, dice professor Borghi, ci sono già gli strumenti, e poi lei non vede effettivamente che il vento stia un po' spingendo verso questa sorta di lotta senza quartiere, dall'evasione alla corruzione? Guardi, io credo che prima di tutto bisognerebbe guardare queste misure così come sono state proposte in modo complessivo, perché all'interno di questa proposta c'è ben altro, c'è per esempio l'adozione di misure di carattere preventivo che tendano a responsabilizzare per esempio i dirigenti dei singoli uffici. Io voglio dire una cosa banale, ma fino a un certo punto, nei giorni scorsi una trasmissione come Le Iene o Striscia la Notizia, non ricordo quale delle due, ha mostrato in un ufficio del catasto un sistema di corruzione generalizzato. È stato divertente sentire l'intervista al dirigente, quale diceva. C'è il cellulare, no, c'è il cellulare che un po' fa le bizze. Aspetti un attimo, ne approfittiamo per dare le informazioni sul traffico, poi ripartiamo da qui di questo racconto che io mi sono perso delle Iene di Striscia la Notizia su questa storia del catasto. Poi magari sentiamo anche qualche ascoltatore. 800 24 00 24. Allora, 800 24 00 24, parliamo di questa proposta, una delle varie proposte, suggerimenti di questa commissione per la pubblica amministrazione, per la lotta alla corruzione, che dice, cari dipendenti della pubblica amministrazione, se avete notizia di qualche comportamento illecito, denunciate, potrete anche essere premiati dal punto di vista economico con il denaro recuperato. Sentirei Anna Maria da Firenze che ci ha chiamato. Anna Maria, buongiorno. Buongiorno. Cose rapidissime. Intanto la premessa: il cittadino ha il diritto dovere di segnalare. Terminologicamente toglierei quella parola denuncia e la sostituirei con segnalazione. Poi c'è un'altra cosa che purtroppo è dilagante, la corruzione, per cui il cittadino italiano ha timore di denunciare per paura di avere delle ritorsioni. Quindi non è, diciamo, molto educativo dire se fai il buono, se fai il tuo dovere ti do dei soldini, però diciamo lo si incoraggia, diciamo, a far quel che a fare, fare il suo dovere, che poi tra l'altro, come ci diceva il dottor Cantone, è anche un c'è un rischio, si incorre in un rischio della omessa denuncia, che è un reato penale. Rapidamente, sì. Io in quel dell'Aquila avvisai un professionista, non dico le categorie, che c'era una cosa che non funzionava, con grande spirito collaborativo. Lui si irritò, mi deferì al mio ordine, che io ero entrata in un cantiere che avevo fatto, e diciamo, poi per fortuna il mio presidente mi ha detto: no, lei ha fatto bene, ha fatto il suo dovere. Vabbè. Però ecco, volevo dire. Però c'è il rischio anche, poi lei dice, di incorrere anche in persone che come dice, si sentono magari tutelate più di chi denuncia. Dottor Cantone stava raccontando di questo episodio del catasto. Volevo aggiungere un'altra cosa che diceva la signora, che è molto giusta, perché nella norma c'è il premio a chi denuncia, ma nella normativa c'è anche una norma che evita che i soggetti che denunciano possano essere discriminati, perché anche questo è un passaggio molto importante che è contenuto accanto ai premi. Ma dicevo quello che dicevo prima, noi abbiamo la necessità di motivare criteri di responsabilità interna della pubblica amministrazione. La vicenda del catasto a cui mi riferivo, il direttore che cade dalle nuvole rispetto a fenomeni di corruzione generalizzata è la prova che i meccanismi preventivi non funzionano, e lì bisogna lavorare per evitare, diciamo, che la corruzione sia generalizzata in alcuni settori. Però che cade dalle nuvole, cioè non lo si può prendere e rimuovere un direttore che cade dalle nuvole? La normativa che noi proponiamo prevede espressamente che ci sia, per esempio, la rotazione in alcuni incarichi che siano particolari, anche di contatto col pubblico. Prevede una serie di individuazioni di criteri che possano dar sospetto dalla corruzione. Oggi non c'è un meccanismo di responsabilità diretta, se non in senso molto lato con la responsabilità dirigenziale. Io credo, diciamo, lo dico con chiarezza, pur essendo stato tanti anni pubblico ministero, che non si può pensare che la corruzione venga risolta semplicemente dai giudici con i processi penali. All'interno della pubblica amministrazione bisogna mettere degli antivirus, dei veri e propri antivirus che impediscano alla corruzione di diffondersi. Senta, invece mi spiega questa vicenda del voler mettere in piazza tutti i beni in maniera trasparente fino ai parenti di secondo grado per i dirigenti della pubblica amministrazione e anche per gli eletti, quindi tutti i politici. Perché la normativa, un consiglio di questo tipo? parenti di secondo grado non sono i parenti di secondo grado, sono al massimo i genitori, i figli e la moglie. Però anche il nonno mi risulta, o no? Il nonno è di secondo e di terzo grado. Di terzo grado, Di terzo grado, quindi voglio dire... secondo grado sì, il nonno sì, però voglio io faccio politica e sia mio nonno, mio figlio, i miei fratelli devono rendere tutto trasparente. No, però attenzione, diciamo, la norma prevede semplicemente meccanismi di trasparenza. Poi ovviamente questa è una proposta, non è diciamo è una indicazione di metodo. Noi abbiamo necessità di evitare che meccanismi di arricchimento di pubblici ufficiali vengano in qualche modo, non vengano segnalati come caso pubblico. Cioè la trasparenza è un altro meccanismo di prevenzione fondamentale che non abbiamo certo inventato noi e che viene indicata come requisito indispensabile da tutti gli organismi internazionali che si occupano di corruzione. Io credo che chi abbia cariche diciamo con rilevanza esterna significativa debba avere una trasparenza che è identica alla casa di vetro. Se io acquisto 10 appartamenti e li acquisto regolarmente non c'è nulla di male. Il problema è capire se certi meccanismi e certi indici rivelatori di situazioni anomale possano, essendo resi pubblici, evitare diciamo qualche, che si annidi la corruzione. Professor Borghi, su questo è un po' la diatriba tra il limite che c'è tra la trasparenza, che è doverosa perché è un incarico pubblico, anche un eletto, e la tutela della privacy, che lei oggi sul giornale scrive. E la privacy dov'è? Ho capito, però come facciamo a conciliare queste due cose, Borghi? Io sono perplesso, cioè si fa notare che c'è una evidente assurdità, no? Perché a questo punto c'è lo zio, poi secondo grado anche lo zio. Zio è effettivamente forse il terzo grado, perché sono in linea, comunque sono i figli, le sorelle e il nonno. O c'è anche lo zio, non so, c'è una diatriba, no, c'è se lo zio grado. Sia di terzo grado oppure di secondo. Ma no, ma si fa notare, dice no, beh, una proposta non è un'indicazione di metodo. E beh, caspita, allora che cosa la facciamo a fare? No? È una proposta, ma credo che la commissione creda in questa proposta, altrimenti non l'avrebbe fatta. Allora diciamo chiaro, perché l'argomento di dire quando ci sono cose di questo tipo, del tipo pubblicate tutte le telefonate, pubblicate i beni che uno ha e così questo tipo, di solito l'argomento è sempre: se uno non ha fatto niente di male non deve temere nulla. Ma non è vero, sono proprio le persone oneste che devono temere qualcosa, perché a un certo punto se io fratello o nonno o nipote di qualcuno che è stato eletto al consiglio comunale di Venegono e sono benestante, mi trovo per motivi miei a essere diverso dalle altre persone. Perché a quel punto solo io, solo per il fatto di essere parente, che già è una fratello cosa di un consigliere comunale, viene spiattellato quello che in piazza che ho il cazzo in casa o cose di questo tipo. Perché sappiamo benissimo che un conto è dire il box, no? Però se vogliamo fare una cosa seria, vogliamo mettere i beni, dobbiamo mettere anche se uno c'ha il Picasso in casa. Però su questo Borghi c'è un po' la vergogna degli italiani nei confronti dei soldi che guadagnano. Cioè, mettendo in conto che io sia un milionario e ho il fratello al consiglio comunale di Venegono, come dice lei, perché mi dovrei vergognare di dirlo, di farlo sapere, se è tutto in regola? Ma per il semplice motivo che qui in Italia mi sembra abbastanza chiaro che si sta avviando verso la colpevolizzazione della ricchezza, perché sappiamo bene che sta passando sottilmente il messaggio che chi ha qua dei beni è probabilmente un evasore, è probabilmente uno che ha avuto le raccomandazioni, è probabilmente quindi uno che ricco, ha fatto delle cose sei da colpire, poco per buono. Questa è l'idea. Quindi, dato che invece così non è, perché noi ci ricordiamo un momento di trasparenza, no? Perché è stato simpatico. Si ricorda quando 3 anni fa sono stati messi pubblici tutti i redditi degli italiani per breve tempo, sì, no? Sì. Allora io, che ho sempre pagato tutte le tasse, figuravo serenamente come uomo ricco nelle liste, no? E venivano fuori le liste e nelle liste c'ero io perché pagavo tante tasse. Non c'erano mai nelle liste invece quelli che dichiaravano zero, no? Perché quelli non facevano notizia. Però intanto io ero puntato a dito e avevo fatto il mio dovere. E dicevano: lei è ricco, lei è ricco. Vabbè, ma insomma, in ogni caso, questo è un problema sul quale magari torneremo perché è molto interessante. Intanto ringrazio il magistrato Raffaele Cantone per essere stato con noi, così come Claudio Borghi, docente alla Cattolica di Milano, editorialista sul Giornale, oggi parla di questo tema. Un ringraziamento a tutti. A momenti spacco anche un microfono. Ci troviamo. torniamo domani alle 7:20.